9 in punto, la versione di Oscar. Buongiorno cari ascoltatori, buon inizio di settimana, buon lunedì 25 di gennaio. Oggi ci occupiamo delle primarie nella Puglia del PD e di tutto ciò che il risultato delle primarie pugliesi nel PD deve indurre a far riflettere sia lo stato dirigente del Partito Democratico, sia naturalmente tutti gli elettori del Partito Democratico, ma contemporaneamente tutti quanti gli osservatori comunque la pensino, perché ciò che avviene inevitabilmente obbliga non solo i quotidiani stamattina ad aprire tutti con titoli dedicati a questo. Ve li ricordo: il titolo della Stampa, trionfa Vendola, il PD si spacca, editoriale di Federico Geremica, sconfitta la linea del partito. Titolo del Corriere della Sera, Puglia, Vendola travolge il PD, battuto alle primarie il candidato di D'Alema, commento di Massimo Franco, l'esplosione del laboratorio. Titolo di Repubblica, Vendola vince la sfida al PD, con un commento di Curzio Maltese, Nicchi e il suo popolo lontani dalla nomenclatura. Vedremo che naturalmente i toni sono diversi, ma il fatto c'è tutto. L'indicazione del vertice nazionale del partito esce con una vastissima partecipazione popolare alle urne delle primarie ribaltata. Nicchi Vendola, il presidente uscente, espressione di un'alleanza estesa a sinistra, è il nome del bilancio del governo regionale pugliese sostenuto in questi anni. Esce potentemente confermato con oltre il 70% dei voti, lo avete sentito, una esplosione di voti anche a Bari, dove c'era il clou dei voti di cui si immaginava che potesse dare un risultato invece più favorevole o meno sfavorevole al candidato indicato dal vertice del PD, Francesco Boccia, del resto già lo stesso candidato sconfitto alle primarie da Nicchi Vendola nel 2005. Naturalmente su questo risultato, che indica una chiarissima indicazione da parte del popolo del PD nei confronti della strategia di cui la Puglia era diventato il laboratorio, cioè una strategia elettorale in vista delle regionali fortemente protesa a estendere il numero di regioni in cui il PD proponeva un accordo strategico all'UDC di Pier Ferdinando Casini. Ecco, è questa strategia che esce fortemente ridimensionata, oltre naturalmente all'indicazione di Boccia come candidato alternativo in Puglia. Ed è su questo che oggi chiediamo ai nostri ospiti una riflessione generale. Cominciamo innanzitutto con Rosy Bindi, il presidente del Partito Democratico, che fino a che le urne sono state aperte ha mantenuto, da presidente del partito, un atteggiamento di grande equilibrio nei confronti delle scelte in campo. Ha risultato proclamato ieri sera e stanotte, lo trovate sui giornali di stamattina. Non ha esitato, come sempre, a parlare chiaro e ha dichiarato: era meglio scegliere subito Nicchi, nel PD serve una riflessione generale, che del resto si apre proprio stamattina con la direzione. Buongiorno presidente Bindi. Buongiorno, buongiorno. Allora, le sue considerazioni sono che il popolo del PD, della Puglia, sembra avere un'idea un po' diversa rispetto a quella indicata dallo Stato Maggiore, ma lei dice seguiamolo il nostro popolo invece che tentare di scegliere per lui, o sbaglio? Sì, perché d'altra parte questo lo abbiamo detto tutti insieme, perché vorrei ricordare che tutti insieme abbiamo candidato Boccia, ma anche tutti insieme abbiamo scelto le primarie, che io considero uno strumento straordinario che non va utilizzato per una resa dei conti all'interno dei partiti, ma va utilizzato per scegliere i candidati migliori per battere gli avversari politici. E credo che questo risultato sia un risultato chiaro, evidente, prima di tutto di grande partecipazione, particolarmente significativa perché avviene in una regione meridionale. Forse dobbiamo convincerci che il Sud vuole essere protagonista del proprio futuro. E avviene in maniera così netta, sì, certo, io credo anche con il contributo determinante di molti iscritti e di molti elettori del Partito Democratico. Questa per me non è una sconfitta del mio partito, è una scelta dei nostri, e non solo dei nostri elettori, di quelli di tutto il centro-sinistra, che noi oggi dobbiamo considerare assolutamente positiva, anche perché, come giustamente lei diceva, e io condivido questo, alle altre primarie vinse Vendola, questa volta vince anche il presidente di una regione che è stata governata con un apporto determinante del Partito Democratico. Quindi è una vittoria comunque di tutti. Chi considerava la Puglia un laboratorio in un certo senso, cioè allargare all'UDC, quasi restringendo all'UDC, credo che oggi si debba dire tutti insieme: la Puglia è un laboratorio in linea con il congresso che ci dice di allargare all'UDC, ma non di sostituire l'UDC ai nostri tradizionali alleati. Mi pare un elemento, quello che siamo riusciti a fare in altre regioni, e quindi siccome l'UDC si è affrettata in attesa delle primarie ad fare accordi col centrodestra in Campania e in Calabria, oggi forse potrebbe riconoscere che la convenienza anche di far parte di una coalizione di centrosinistra, della quale può far parte a pieno titolo, guidata da un candidato così forte come Vendola è in questo momento. Le faccio una domanda, Presidente, molto chiaro quello che dice. Mettiamoci per un secondo, naturalmente non è il suo mestiere è quello di presiedere il PD, ma mettiamoci per un secondo nei panni di Pier Ferdinando Casini, che vede al congresso che porta alla scelta di Bersani una chiarissima offerta, un ragionamento politico messo al centro del tavolo contro Berlusconi per preparare insieme la possibilità di qui alle prossime politiche di un rapporto che estende in un'alleanza tra distinti o un rapporto di opposizione più ampio nel paese, più radicato e anche con un'attenzione spostata rispetto agli anni del passato del governo Prodi, più verso sinistra, più verso il centro dell'elettorato. E mettiamoci per un secondo nei panni di Casini, che dice: di fronte all'offerta che mi fate, poi avete le primarie nel vostro statuto, vi ricorrete e questa linea mi sembra, credo che lo dirà Casini oggi stesso, ribadendo perché non si può alleare in Puglia con Vendola, mi sembra che poi venga smentita. Come faccio a fidarmi di voi? E che cosa si risponde a questo tipo di obiezione di Casini? Ma guardi, se Casini ci chiede come fa a fidarsi di noi, come lo fa Vietti oggi in un'intervista alla stampa, come dire, ci invita a rispondergli perché noi dovremmo fidarsi di lui che, ripeto, in questi giorni si è affrettato a concludere accordi col centrodestra in Campania, in Calabria. In quest'ultima regione gli avevamo addirittura individuato insieme un possibile candidato dell'UDC. Quindi, se la vogliamo mettere sull'affidabilità, insomma, non accettiamo lezioni. Questo mi credo che sia evidente. Invece io credo che noi dobbiamo molto più, anche umilmente direi, constatare che questa è una strada giusta, ma è difficile, non è scontata, perché mentre oggi è chiaro che ci deve essere una collaborazione tra le opposizioni, non è ancora chiaro è possibile realizzare un'intesa a tutto campo con l'UDC, perché la stessa UDC, io credo che non, oltre il dopo, la sua missione principale oggi è cambiare questo bipolarismo. Bene, la sua funzione di domani è rafforzarlo il bipolarismo, e in che senso? Oppure è continuare su questa strada? Perché per noi possiamo anche essere d'accordo nel dire che il bipolarismo così come oggi non è perfetto, anzi lo affermiamo anche noi, ma dopodiché nel nostro futuro c'è il rafforzamento del bipolarismo in questo paese, il miglioramento, ma il rafforzamento del bipolarismo, non l'incertezza del bipolarismo. E da questo punto di vista l'UDC dovrà decidersi se un domani vuol far parte di una grande coalizione di centro-sinistra o è più interessata, una volta insieme al Partito Democratico liberata, come dicono loro, l'Italia da Berlusconi, ricollocarsi dentro il centrodestra. Presidente, tra poco abbiamo Vietti e quindi glielo chiederemo anche a lei. Volevo farle almeno un'altra domanda ancora. Il commento di Curzio Maltese oggi su Repubblica. Repubblica ha una linea, diciamo, meno caustica nei confronti della sconfitta delle indicazioni del vertice nazionale del PD, e nel commento di Curzio Maltese conclude invitandovi calorosamente a tenere conto, ad aderire alle indicazioni delle primarie pugliesi, e dice la conclusione di Curzio Maltese, che pure non aggira neanche lui il problema di fondo, il problema di fondo che ha contato molto, poiché si tratta della Puglia, presidente Bindi, poiché si tratta di un'indicazione che tornava su un conto aperto del passato, e la sconfessione di un impegno personale sostenuto con grande evidenza in queste settimane di Massimo D'Alema. Lo so che non bisogna mai personalizzare nella politica, ma quando si tratta di un nome come questo e della storia del PD bisogna farlo. E rispetto a questo, la conclusione di Curzio Maltese dice: si può dire che è finito un film, D'Alema 2, la vendetta è finito, perché le primarie del PD pugliesi dimostrano che questo film non funziona, non ha successo. Auguriamoci di assistere d'ora in poi a un altro film, cioè Bersani l'avvento. Come a dire, fino a questo momento Bersani è stato troppo condizionato dai residui della lotta del passato, diciamo, tra Veltroniani e Delemiani, adesso speriamo che capisca. Non le chiedo di usare toni così personali, perché la conosco troppo bene e so che rifugge da questi toni, però insomma uno degli aspetti fondamentali di questo voto delle primarie del PD e di tutto quello che succede in queste settimane convulsa nel PD in tutta Italia è questo apparente regolamento di conti tra componenti delemiani, molto importante nel passato e nel presente, e componenti che invece sono riconosciuti in una diversa nella storia passata del PD. Ma questo Bersani nuovo dell'avvento lo vedremo secondo lei? Ma guardi, io ho sostenuto e sostengo Bersani con grande convinzione, perché so che Bersani è di Bersani. So anche, ed è uno dei motivi per i quali io l'ho scelto, che vorrà dirigere il partito non da padrone, da monarca, da leader assoluto, ma da persona che sa che i partiti sono cose complesse, che hanno un passato, che è sempre difficile entrare nel futuro. Credo che questa sia una fase tra le più impegnative del dopo congresso, anzi sicuramente la più impegnativa. Il congresso si è chiuso qualche settimana fa. Credo che noi abbiamo mantenuto le nostre scelte del congresso, allarghiamo di cima, lo facciamo rimanendo centrali dentro il centro-sinistra e quindi non abbandonando l'accordo con la sinistra, lo facciamo non rinunciando a uno strumento importante come quello delle primarie, e credo che da questo punto di vista Bersani abbia, come dire, fatto il segretario a pieno titolo in queste settimane, con la prudenza di chi sta di dirigere una realtà complessa, come è un grande partito del 30%, che peraltro, non ce lo dimentichiamo, non è nato da molto tempo, è dovuto passare al vaglio di molte consultazioni elettorali che non gli sono andate bene, e che deve guardare al futuro, e Bersani ha davanti a sé 4 anni, perché questa tornata congressuale dura 4 anni, e credo che vedremo avvento, Natale, se posso continuare a usare il linguaggio cattolico, visto che oggi è anche l'anniversario dell'indizione del Concilio Vaticano II, anche la Pasqua. Presidente, un'ultima dichiarazione, perché poi so che appunto devi andare a Roma in direzione, ma i giornali di stamattina però riportano anche, diciamo, dichiarazioni. C'è chi riporta una delusione esplicita di Bersani, che dice serata amara, c'è chi riporta dichiarazioni di Fioroni, balliamo sul baratro, la prossima volta può arrivarci un calcio nel sedere a tutti, leggo testualmente. E D'Alema, hanno lavorato contro di me, è come se una squadra tifasse per gli avversari. Lei capisce che lei dipinge un quadro irenico, però quello... guardi, io penso che noi dobbiamo sentirci i vincitori, perché le primarie le abbiamo volute noi, perché molti dei nostri hanno votato per il vincitore, perché Vendola l'ha vinto, perché noi siamo stati anche in giunta con lui, perché lo sosterremo e perché vinceremo le elezioni in Puglia. Ah, va benissimo. E allora, su questo naturalmente noi non abbiamo ancora parlato del fatto che anche nell'altro campo comunque la scelta delle candidature si apre a problemi. È arrivata proprio ieri sera l'indicazione di Rocco Palese in Puglia come candidato della PDL, una candidatura che sembrava fino a poche ore prima non avere esattamente la convergenza della PDL, e naturalmente una candidatura a cui si arriva con metodi leggermente diversi da una partecipazione di massa al voto come quello pugliese. Abbiamo con noi collegato Rinaldo Giannola, vice direttore dell'Unità. Buongiorno Giannola. Buongiorno a voi. Allora, dal suo punto di vista, quale delle due linee seguire nell'interpretazione di questo voto? Un voto che porta alla vittoria, come dice l'onorevole Bindi, il presidente del PD, un voto invece che scanfessa un cantiere, come commenta oggi il Corriere della Sera, un cantiere importante, perché un cantiere pugliese come quello in cui D'Alema aveva progettato una ricollocazione che dialogava con l'UDC, una ricollocazione non regionale ma nazionale, influenzando, ipotecando quasi la nuova segreteria di Bersani. E il suo punto di vista? Ma il mio punto di vista è che Vendola in Puglia ha dato una lezione con i suoi voti raccolti alle primarie, alla segreteria del PD e al PD in generale. Non credo affatto, come dice il presidente Bindi, che qui abbia vinto tutto il PD nella sua interezza, perché volevano le primarie e poi alla fine vinceremo le elezioni in Puglia. Non so se vinceremo le elezioni in Puglia, però da osservatore, da elettore, da simpatizzante del PD, mi sono chiesto come mai un candidato forte come Vendola, che secondo me ha governato bene una regione difficile in questi 5 anni, un candidato popolare, fosse stato messo in discussione dalla segreteria del PD per fare un accordo con l'UDC. Questo gli elettori del PD, secondo me è il motivo fondamentale della vittoria di Vendola, non lo hanno capito e non lo hanno condiviso. Perché se la linea del PD è quella di fare una politica delle alleanze con chiunque per poter portare a casa un posto in più in qualche regione, ho l'impressione che tutta la grande rivoluzione che sta alla base del Partito Democratico, per quelli che ci credono, sia falsa. Non è vera. Gli elettori di centrosinistra vogliono qualcosa di chiaro, trasparente, che sia esplicito e che sia, come dire, declinabile in tutto il paese. Voi mi dovete spiegare perché Vendola deve fare le primarie dopo aver vinto 5 anni fa alla grande in Puglia, e io in Lombardia mi devo votare penati senza partecipare ad alcuna scelta del candidato delle elezioni regionali. In effetti la scelta delle primarie avviene, per così dire, un pochino a macchia di leopardo. Mi pare di capire che conti molto anche l'equilibrio tra le diverse componenti nelle diverse regioni, quelle che hanno portato al congresso. Ma la domanda che ti faccio è, pensando a Lazio, altra grande regione in cui la scelta del PD, diciamo, non ha fatto discutere, singolarmente non ha fatto discutere, cioè c'è stata una fase preparatoria di avvicinamento al voto in cui Zingaretti ha posto delle condizioni al vertice nazionale, il vertice nazionale per accettare la candidatura, il vertice nazionale è sembrato non dico accettarle ma neanche esaminarle, è stato messo da parte, si è arrivati all'autocandidatura di Bonino. Le condizioni di fatto sono testa a testa nei sondaggi a oggi, però apparentemente una scelta rispetto alla quale il PD è come se dicesse alla Polverini, la candidata del centrodestra, non dico accomodati, ma insomma è un pochino più facile, gli si rende la vita. La domanda che ti faccio, Rinaldo, pensando a questa altra strada non fatta di primarie e fatta con una declinazione, un'apparente abdicazione di fronte a una candidatura, sia pur rispettabile come quella della Bonino, invece che una riflessione è un'offerta alle primarie nel Lazio, che cosa ti viene di pensare? Sono strategie pezzo per pezzo d'Italia completamente diverse che non testimoniano una regia del partito, oppure bisogna pensare che il partito si fa dal basso in maniere diverse in pezzi d'Italia così importanti? È molto a rischio, mi sembra, questa strategia. Secondo non lo so, io vedo un po' di schizofrenia nelle scelte che sono state fatte negli ultimi mesi, perché, voglio dire, una candidatura della, come quella della Bonino nel Lazio è pienamente rispettabile, ha una sua, potrebbe avere anche una sua logica politica per il PD in modo molto evidente e chiara, ma come nata è stata, come dire, subita dal PD, non c'è stata nessuna elaborazione, discussione, si è arrivati proprio quando la Bonino si era già candidata e ha detto col cavolo che io faccio le primarie, comunque io mi candido e basta, insomma, e a quel punto il PD un po' si è accodato. Ma io mi chiedo, vuol dire, proprio se il problema è quello di mantenere i candidati più forti, di mantenere chi ha governato bene in questi anni e ha una solidità di rapporto sociale, di rapporto elettorale, ad esempio, perché in Umbria non viene candidata automaticamente da Lorenzetti, che ha governato benissimo? Cioè, qual è il la ragione per cui bisogna cambiare candidato, e così lo stesso discorso vale per la Puglia, no? Chiaramente Vendola non era un candidato del PD, ma accidenti, cioè la situazione è talmente malmessa che almeno puntiamo sui candidati che abbiano un radicamento, che abbiano una forza elettorale, che siano popolari. E infatti anche nell'Umbria, secondo me, è l'equilibrio tra lo squilibrio, la dialettica non risolta al congresso tra le diverse componenti, quella che porta a creare problemi a Lorenzetti, candidato uscente, quindi si preferisce quasi mettere in conto una sconfitta elettorale in nome di pugni interni, piuttosto che adottare una strategia, quando si è in difficoltà, a maggior ragione, di contenere i danni e di tentare di vincere almeno laddove si può. Eccoci tornato nello studio di Milano di Radio 24. Ci stiamo occupando oggi del risultato delle primarie del PD pugliesi, un risultato che scardina la strategia nazionale del partito rivolta all'UDC, che fa della Puglia, considerava la Puglia un laboratorio nazionale. 200.000 votano la primaria della Puglia, scelgono Nicky Vendola, il governatore uscente, con una percentuale molto alta, superiore al 70%, anche nelle aree più dalemiane come Gallipoli, come Bari, dove c'è polemica nei confronti del ruolo sostenuto da Emiliano, l'ex sindaco di Bari. Stamattina una direzione, tutti nel partito si interrogano se questa strategia del rapporto con l'UDC debba andare avanti, sia pur smentita così clamorosamente dagli elettori, o seppure si tratta invece di articolare diversamente, in maniera più rispettosa rispetto alle scelte di tutta la nascita del PD, che vedevano appunto nelle primarie, nella forte partecipazione dal basso, nel tentativo di risolvere così anche la pluralità delle anime interne, un tentativo inedito, nuovo, di una forza politica che non c'era prima e che quindi si costruisce anche attraverso rapporti di questo tipo, un po' problematici, tra la propria base, i propri elettori e la leadership nazionale. Vediamo cosa ne pensano alcuni di voi. Cominciamo con Antonio da Brescia. Prego Antonio, che ne pensa? Buongiorno a lei e a tutti gli ospiti. Il mio concetto è già stato ribadito dai suoi ospiti, cioè per me è stata una chiara scelta verso il bipolarismo. Contro l'UDC, contro il centrismo proporzionale, e questa è stata una chiara presa di posizione, e anche forse potrebbe far capire a quelli del PD che il voto cattolico, insomma, non è come vorrebbero certi, diciamo, ex democristiani. Io peraltro non sono del PD, sono voto centrodestra, però sono di un partito che con l'UDC è sempre in guerra, quindi ecco, soprattutto questa indicazione mi sembra che venga. Lei dice una scelta chiaramente maggioritaria piuttosto che rendersi caudatari a chi lo vuole scardinare dal centro come l'UDC. Capisco che chi partecipa alle primarie in Puglia dica meglio Nicky Vendola. E naturalmente poi tutto questo, poi bisogna porsi il problema all'indomani del risultato delle elezioni regionali, perché se poi a quel punto vince palese centrodestra, ci sarà chi oggi appare sconfitto nel PD che dice: cari signori, avete voluto fare le primarie e seguire Nicky Vendola, ecco che cosa ci porta la vostra indicazione. Quindi è una riflessione aperta. Andrea da Ferrara, come la pensa? Buongiorno, io sono uno che ha fatto tutto il percorso con Franceschini nel PD, salvo poi quando ho capito che i cattolici del PD erano un inutile appendice, allora a quel punto lì ho pensato bene di andare nell'UDC. Vedo che Lusetti, che è uno che con Franceschini è andato a braccetto dai tempi del giovanile della DC, è un altro che adesso mi ha seguito 3-4 mesi dopo, poi bontà sua, voglio dire, io sono a tutt'altro livello, sono un militante locale, no, però vedo da fuori un partito che, una volta depurato da questa inutile appendice cattolica, è ovvio che si rivolge a alcuni da quelli che sono i candidati della sinistra, peraltro dignitosissima, per carità, ci mancherebbe altro. Io di Vendola non posso che dire, vedendolo da fuori, complimenti a lui. Non faccio altro che constatare che è tutto meno che un candidato centrista. Vogliono andare da quella direzione lì con la Bonino eccetera, liberissimi di farlo, ecco. Lei dice: vedremo appunto il giorno dopo il voto a che cosa vi porta questa strategia. Salvatore dalla provincia di Milano, prego Salvatore. Sì, buongiorno. Innanzitutto mi spiace che la presidente del PD sia già andata via, volevo farle i complimenti e esprimere la solidarietà da parte di un cittadino che fra l'altro da un po' non vota più PD, ecco. Però stimo moltissimo lei come persona. Volevo dire che il PD evidentemente è proprio staccato dal mondo reale, perché non riesce a percepire quello che la gente vuole dire. Salvatore, quindi, quando dice il PD intende lo Stato Maggiore, chi indicava Francesco Boccia? Certo. Ecco. Certo, lo Stato Maggiore assolutamente, perché voglio dire, c'è stata qualche mese fa una grossa provocazione da parte di un personaggio che molti già si arrabbiano quando viene nominato, ma io lo nomino, Beppe Grillo, che aveva detto: mi candido anch'io alle primarie. Ebbene, non gli hanno permesso di candidarsi perché secondo loro sarebbe stata chissà che cosa. Invece bastava dare al popolo la possibilità di dire cosa ne pensasse. Se Grillo non valeva niente prendeva zero voti, se Grillo prendeva 10 miliardi di voti forse avrebbero cambiato idea. Invece niente, gli hanno segato le gambe, e secondo me queste primarie del PD vengono usate per segare le gambe. Adesso hanno provato con Vendola, ma la popolazione pugliese, dalla quale vado fiero come concittadino italiano, io sono siculo, ha detto: non rompeteci le scatole, vogliamo Vendola, ha governato bene, lo vogliamo per altri 5 anni. Questo è quello che dico. Io non voto più PD, io voto Di Pietro, voto Grillo, sì. Però sono felice del fatto che la gente in Puglia abbia detto chiaramente quello che vuole: basta D'Alema, basta il vecchio PD. Viva la Bibbia. Grazie, grazie, grazie Salvatore, l'ha espresso con grande chiarezza. E poi cerchiamo di non confondere poi le opinioni espresse con i viva via, che poi diventano un po' con tono da comizio. Ci ha raggiunto telefonicamente Michele Vietti, vice segretario dell'UDC, vicepresidente del partito. Così gli chiederei, Vietti, ma che questo tipo di scelta delle primarie, che riflessioni induce nell'UDC? Immagino che oggi ci aspetti la conferma di una decisione che era già stata preannunciata da Casini, era stata offerta anche la riflessione di chi partecipava alle primarie del PD in Puglia. È evidente che l'UDC diceva: se fate la scelta di Nichi Vendola non farete un'alleanza con noi. Ma in generale, più in generale sull'avvicinamento che il PD di Bersani sembrava avere, molto pronunciato nei vostri confronti come una strategia di costruzione di un'alternativa diversa in vista delle prossime politiche, mancano 3 anni, però si costruisce attraverso le regionali, che tipo di riflessione induce l'UDC a fare questo tipo di risultato delle primarie in Puglia? Ma mi pare molto significativo l'intervento di quell'ascoltatore dichiaratamente di destra e probabilmente leghista, anche se ho ben inteso, il quale ovviamente è tutto felice della vittoria di Vendola, perché la vittoria di Vendola vuol dire probabilmente la vittoria della destra in Puglia. E allora che di questo siano contenti gli avversari mi sembra normale, che siano contenti uomini di sinistra mi sembra un po' più stravagante, ed è il segno probabilmente della confusione che regna da quelle parti. Ora, noi avevamo lanciato una sfida al PD in Puglia: proviamo a fare una soluzione riformista, abbandoniamo il rapporto privilegiato con la sinistra massimalista, spostiamo al centro l'equilibrio dell'asse politico e facciamo una coalizione di centro-sinistra. Il PD è rimasto vittima delle sue contraddizioni, non è stato in grado di evitare le primarie, che possono avere anche una loro logica, che io non apprezzo, ma tutta interna al partito, non hanno nessun senso quando si devono fare delle ipotesi di governi di coalizione, di alleanze di partiti diversi. E come dire, chi è causa del suo mal pianga se stesso. Detto questo, io non credo che questo voglia dire archiviare definitivamente un'ipotesi di collaborazione tra PD e UDC. In Piemonte noi la stiamo praticando e spero che dia buoni risultati. L'UDC rivendica la sua natura di polo centrista. Ci hanno legittimato a questo gli elettori nel 2008, quando ci hanno detto: state da soli, non andate né a destra né a sinistra. Ce l'hanno confermato l'anno scorso alle europee del 2009 e alle provinciali. Questo ci consente di fare una proposta e a destra e a sinistra. Chi è disponibile a rompere con la sua componente demagogico, massimalista, populista, e a destra e a sinistra, e a convergere in un'alleanza con il centro? Al nord il PDL ci ha risposto con i candidati leghisti, quindi evidentemente è una risposta che per noi è politicamente impraticabile. Dove il PD ci ha risposto scaricando la sinistra e accettando di fare un'alleanza di centrosinistra con noi, io credo che la sfida possa essere giocata e valga la pena di essere praticata in una logica di sbloccare un sistema che diversamente darà in eterno la vittoria a Berlusconi. Onorevole Vietti, due domande da un punto di vista, diciamo così, più PD che di osservatore politico. Mi sostituisco. L'onorevole Bindi all'inizio della trasmissione le diceva, diceva rivolgendosi all'UDC, certo l'UDC oggi ci dirà questo e quell'altro, però a propria volta l'UDC ha fatto scelte in maniera precipitosa, non coordinata, se dovessimo prendere davvero sul serio fino in fondo la sua strategia, per esempio in regioni come la Campania, come la Calabria, e quindi e questo fino a qui l'ha detto l'onorevole Bindi. La cosa implicita che ha lasciato capire, senza dirlo per eleganza, era che dal punto di vista dell'UDC vi mettete queste elezioni un po' nell'atteggiamento di chiedere da dove si vince con l'una e l'altra parte. Seconda osservazione a cui le chiedo di rispondere: le primarie pugliesi hanno questa particolarità, in realtà poi Nicky Vendola era presidente uscente ma non era del PD, quindi alla fine l'elettorato del PD, chi si è messo in fila e ha partecipato alle primarie magari pur non avendo votato per Vendola la volta scorsa, non lo so, ma tutti questi quasi 200.000 cittadini hanno fatto una scelta che non era di un esponente del PD, tant'è che oggi ci sono esponenti nazionali del PD che dicono a Nicky Vendola entra nel nostro partito, per esempio Ignazio Marino. Allora la domanda è: quando si tratta di fare accordi di coalizione come quelli che ricordava lei, e quindi i vertici dei partiti fanno questi accordi, e a questo punto voi vi trovate nella condizione di non sapere se fidarvi o meno, perché fate accordi con un partito PD che poi passa per primarie laddove decide di passarvi, che magari lo sconfessano, in quel caso sareste disposti a dare allo Stato Maggiore del PD, ma soprattutto agli elettori, ai simpatizzanti del PD, la disponibilità a mettere il vostro candidato per un'ipotetica alleanza con il PD anche al voto delle primarie, domanda, perché forse così si cementa meglio di fronte al sospetto di una parte dell'elettorato che la vostra sia una strategia non bipolare? No, guardi, la nostra anzitutto non è una strategia bipolare, perché noi infatti siamo dichiaratamente antibipolari, quindi come dire, da questo punto di vista non abbiamo bisogno di foglie di fico come finte partecipazione alle primarie. Come lei ricordava, le primarie non hanno peraltro nessuna regola, e a differenza di quello che capita in paesi come gli Stati Uniti non bisogna neppure essere elettori del partito per potervi partecipare. Questo evidentemente consente un'alterazione sostanziale del risultato. Fermo restando che, appunto, come ho già detto, dove c'è una scelta di coalizione è paradossale immaginare che uno dei partiti della coalizione fa scegliere da una massa indistinta di elettori che non si sa se sono i suoi o quelli degli altri o addirittura gli avversari. Perché può esserci anche questa ipotesi non del tutto maliziosa, credo, ecco, il candidato. Per quanto riguarda le affermazioni della Bindi, che peraltro non ho sentito, anche le nostre scelte in Calabria e in Campania non sono state affatto precipitose, anzi anche lì hanno atteso lungamente le convulsioni interne del PD. Poi per quanto riguarda il fatto che noi andremo dove si vince, francamente anche questa mi sembra un po' paradossale. Se noi fossimo andati con chi vince nel 2008 saremmo andati con Berlusconi e oggi qualcuno di noi sarebbe ministro. Se fossimo andati con chi vince adesso saremmo andati con il PD in Emilia Romagna, in Toscana, o con il PDL in Lombardia o in Veneto, dove ci hanno lungamente corteggiato. Chiarissimo. Però il messaggio altrettanto chiaro è che agli elettori o ai dirigenti del PD che continuano a far finta di non capire, come avete sentito ancora una volta, che l'UDC dichiaratamente, esplicitamente, da anni, non da adesso, da quando ha mollato centrodestra, dice di essere antibipolare, e questo mi sembra un elemento molto netto su cui rifletterò. Eccoci tornati in studio, ci occupiamo del giorno dopo rispetto alle primarie del PD pugliese che hanno scelto il presidente uscente Vendola con una forte partecipazione alle urne, ma un risultato nettissimo, il 72-73% dei sì per Vendola contro Boccia, il candidato ancora una volta come 5 anni fa indicato in alternativa a Vendola, e questa volta con endorsement del Stato Maggiore Nazionale del PT, e ci occupiamo quindi di che cosa questo indica rispetto alla strategia di un partito che a queste regionali cercava un'intesa con l'UDC il più possibile estesa, e si trova oggi invece con l'anima interna del partito che negli ultimi 2 mesi, avvicinandosi alle regionali, hanno iniziato un vero corpo a corpo in molte regioni. Io ricordo che in Calabria ancora il candidato del centro-sinistra non è indicato in Campania, e anche lì è fortissima la lotta interna. Nel Lazio, lo abbiamo ricordato, si è arrivati all'autocandidatura di un esponente come Emma Bonino, che il PD si è fatta andare bene, diciamo così, esponendosi al forte rischio di perdere le regionali. In Veneto, proprio sabato, la direzione regionale, in questo caso non con le primarie, con un voto a maggioranza risicata, ha scelto Giuseppe Bortolussi, assessore comunale a Venezia, esponente della CGIA di Mestre, che i nostri ascoltatori conoscono molto bene per la maestria con cui si batte a favore degli artigiani, commercianti e lavoratori autonomi sul fisco, posizioni non proprio quelle di Visco, ma lì la scelta è stata quella rispetto ancora una volta a indicazioni diverse dello Stato Maggiore Nazionale. Giuseppe Bortolussi era stato indicato da Cacciari, sindaco di Venezia uscente. Ancora in Umbria per il PD il candidato è da scegliere, e anche in questo caso con forti tensioni interne al partito rispetto a Lorenzetti, presidente regionale che era uscente, sembrava naturalmente confermata rispetto ai buoni risultati di governo, e invece così non è ancora, il nome non è indicato. Allora sentiamo un pochino di telefonate e poi torniamo con Rinaldo Gianola, che è rimasto collegato con noi. Innanzitutto Anna Rita da Roma, prego Anna Rita. Buongiorno dottor Giannini e complimenti per la trasmissione. Io ho un piccolo appunto, quello che mi scandalizza è che si tenti in qualche modo, anche quando si esprimono i nostri politici, di cancellare l'idea che noi siamo un popolo pensante, e in quanto popolo pensante è bene che si abbia rispetto anche di un fenomeno come le primarie. Quindi l'elettore, il cittadino, non è lo stratega della politica, il cittadino è la persona che quotidianamente sperimenta e che non ha nessun motivo di censurare il suo pensiero. Quando si esprime c'è bisogno civile che questo venga rispettato. Tutto qua. Mi dispiace moltissimo pensare a orde di persone che vanno a votare le primarie. Io sono sempre stata un'elettrice di centro-sinistra. Quando le primarie non mi convincevano, io non sono andata ad esprimere la mia preferenza, perché sono una persona libera di pensare. Io credo che noi rischiamo in Italia di essere afflitti da una forma di conformismo anche intellettuale veramente devastante. Io mi auguro che la gente continui a pensare con la propria testa, e proprio per questo potrà forse a collaborare meglio con la politica. Grazie. Perché la politica avrà occasione di stare in contatto con la gente, con la gente comune. Grazie Anna Rita. Francesco da Bari, prego Francesco. Buongiorno dottor Giannino, salve. Niente, io proprio riallacciandomi a quello che diceva la signorina di prima, ho cominciato a pensare con la mia testa, e quindi essendo elettore del centrodestra sono andato a votare per Nicky Vendola. Quindi lei conferma che gli elettori del centrodestra avevano un interesse a Nicky Vendola? Ci brucia ancora l'UDC che ha fatto vincere Emiliano a Bari, e quindi per evitare che l'UDC faccia vincere ancora una volta la sinistra qui, allora abbiamo deciso di ragionare con la nostra testa e di cominciare a muoverci anche in questo senso. Quindi grazie anche a noi, Vendola ieri ha vinto. Benissimo, questa è una testimonianza sulla quale sarei curioso di sapere l'opinione dell'onorevole D'Alema o dell'onorevole Latorre, perché inevitabilmente direbbero: caro Nicky, è inutile che festeggi, perché come vedi stai lavorando per il re di Prussia. Gabriele da Modena, lei che pensa? Pronto, buongiorno. Guardi, io sono un ragazzo di 37 anni e mi chiedo... ragazzo, esagero manenco, come si dice la mia parte. Comunque mi chiedo come si fa a votare un partito che ha un senatore che è stato condannato a 7 anni di reclusione. E sono sicuro che non farà nemmeno un giorno in galera. E di quale partito in questo momento sa? Di partiti oramai con... Di condannati ce ne sono tanti, io parlavo dell'UDC. Ah, mi meraviglio veramente tantissimo come fanno i vertici dell'UDC a non esprimersi affatto del fatto di quello che è successo 2 giorni fa, non è che è successo chissà quanto tempo fa. È il caso Cuffaro, sta dicendo? Esatto, il fatto che è successo la condanna di Cuffaro. E mi chiedo come fa un altro partito a pensare di allearsi con un partito dopo quello che è successo. Stiamo proprio parlando adesso di alleanze e non alleanze, ma un po' di morale, cioè un po' di morale da parte dei politici, dai partiti, dov'è? Va bene, io questa è la domanda. Grazie. Ma su questo io sono della linea che a seguire gli epuratori c'è sempre un altro epuratore che ti epura. Quindi, però rispetto naturalmente a chi la pensa diversamente da me, come lei, su questo. Sergio da Lecce, l'ultimo ascoltatore, prego Sergio. Buongiorno dottore. Senta, vorrei soltanto fare un'affermazione, una considerazione a tutti questi elettori comunisti che dicono che hanno governato bene in Puglia. Voglio soltanto ricordare che in Puglia la sanità è nell'occhio del ciclone, con scandali, con grossi scandali, e inoltre oltre a questi grossi scandali, hanno creato un deficit di parecchi milioni di euro quando Raffaele Fitto ha lasciato un utile nella sanità. Soltanto questo volevo dire. E Raffaele Fitto, lo ricordo a tutti, per chiudere gli ospedali di troppo per contribuire al recupero del deficit, si espose a fortissime polemiche dentro la regione. Del resto, però, bisogna riconoscere a Nichi Vendola di aver sulla spesa sociale tenuto fede agli impegni che aveva preso con i suoi elettori, che la pensano naturalmente in maniera diversa rispetto a quelli che dicono innanzitutto riequilibra i conti. Rinaldo Giannola, se allarghiamo un secondo lo sguardo oltre la Puglia e vediamo per esempio anche il caso bolognese, tanto per dirne uno, l'impressione che hai del prosieguo della gestione Bersani, che cosa ti auguri, che cosa prevedi al di là di ciò che ti auguri? Ma io mi auguro che il PD finalmente, poi con fatica, perché è un processo faticoso e ostacolato da molti incidenti purtroppo, diventi un partito con un profilo forte, un profilo politico forte, quindi ben definito. Mi chiedo che cosa dobbiamo vedere ancora nei prossimi mesi per arrivare a un risultato apprezzabile sotto questo punto di vista, perché anche il caso di Bologna, che pure mi sembra meno grave di altri, dà l'impressione che veramente non c'è più alcuna diversità, non c'è più alcuna, diciamo, valutazione morale, etica nella scelta dei candidati. Ma dà l'impressione anche di un imbarazzo di linea, per così dire, che è la cosa che mi colpisce sempre di più in questo PD. Il problema forse di questi primi mesi della segreteria Bersani è che lui si è fatto abbastanza vanto del fatto di parlare poco, no? Ha detto mi sentirete poco parlare. Io penso che invece ci sia bisogno che lui parli un po' di più, cioè che faccia delle affermazioni anche forti, fuori, diciamo, dalla sua capacità dialettica, di solito molto emiliana, molto pacata, molto tranquilla. Insomma, ho l'impressione che il popolo del centro-sinistra, del Partito Democratico, oggi abbia bisogno di una leadership più decisa, più forte, che sia anche mediaticamente più visibile. Più netta, sì, questo sicuramente la politica è stata abituata da anni a una personalizzazione, a una nettezza che questo avvio di gestione di Bersani, io sono d'accordo con Rinaldo Giannola dell'Unità, diciamo, non è sicuramente uno degli elementi caratterizzanti di questo Bersani agli esordi, quindi ci si espone a molti schiaffi e le conseguenze verranno tirate nelle urne di una strategia che non mi sembra molto coerente e coordinata. Comunque la pensiate, questo è un dato oggettivo. Due mesi fa, quando Berlusconi sembrava in guai neri, tutti dicevano vedrete il PD regionale. Oggi i sondaggi dicono diversamente. Bene, appuntamento a domani. Mi scuso perché questa trasmissione l'abbiamo decisa 5 minuti prima di cominciare, forse un po' si è visto. Comunque il giornalismo e la diretta sono fatte così. Grazie a tutti, a domani mattina, Linea Giornale Radio.